Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Laura Vanossi in redazione, Filippo Aureggi in regia, e oggi la sensazione mia è quella, ma credo di tutti voi, è quella della fine di una cotta estiva, per quanto mi possa ricordare. Schumacher non guiderà la Ferrari né a Valencia né in seguito, si è arreso ai problemi al collo, e per arrendersi lui vuol dire che proprio non era possibile guidare quella macchina. Oggi doveva essere il giorno di nuovi test al Mugello, invece al Mugello c'è il silenzio. La notizia è per molti aspetti sorprendente, era appunto annunciato uno Schumacher anche in grande ripresa. È chiaro però che, leggendo le notizie di questi giorni, c'è sì Schumacher, ma ci stiamo rendendo conto che sotto c'è molto di più. Ce ne stiamo rendendo conto anche in modo drammatico, che forse il limite fisico è stato superato. Stoner si arrende a disturbi di non chiarissima origine. Oggi allo stadio dell'Espagnol di Barcellona si rende omaggio ad un giocatore di calcio di 26 anni, capitano dell'Espagnol, sapete bene, Dani Jarque. Il 28 agosto del 2007 moriva un altro di giovane giocatore spagnolo, Antonio Porta. Poi ci sono tanti casi che, insomma, sono anche cronaca di questi giorni, con la strada per l'oro di Federica Pellegrini che passa dal tunnel del panico, del terrore. Non si contano più i casi di depressione, da Pantani a Buffon, ad Adriano, chi volete voi. Insomma, c'è qualcosa di profondamente pericoloso, mi sembra. Ma andiamo su Schumacher, poi ne parliamo insieme. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Saluto e ringrazio Alessandro Pasini, collega del Corriere della Sera, inviato in questi giorni nel fulcro dello sport italiano a Coverciano, che è ovviamente a due passi dal Mugello, da dove appunto doveva esserci l'urlo del motore della F2007 e invece silenzio. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Schumi che si arrende, tu lo conosci bene, vuol proprio dire che non ce la fa. Se Schumi si arrende vuol dire che non ce la fa, vuol dire che chissà, forse in qualche modo ci risulta anche un po' più, non lo so se simpatico, sicuramente più umano, ha capito che il limite è raggiunto e che non si può superare, insomma. Quindi una scelta che va naturalmente rispettata e che dice giustamente quello che dicevi tu poco fa, insomma, che lo sport a volte raggiunge il limite, la corda si tira e non è il caso di rischiare oltre. Naturalmente il caso di Schumi è un po' differente, per esempio, da Stoner che tu citavi. Era un ritorno, lui l'aveva detto anche subito, insomma, testerò le mie condizioni, vedrò come sto, e per una serie di motivi forse ha capito che non è il caso, no? Sia per il fisico, sia perché poi forse non ha capito che non avrebbe potuto fare i risultati che da Michael Schumacher ci si sarebbe aspettato. Tu dici che possa esserci anche questa componente, no? Anche perché la decisione è improvvisa, Alessandro, perché c'era il casco nuovo, la tuta nuova, insomma, era tutto lì pronto, quindi dà proprio l'idea di uno che ha deciso da un giorno all'altro, che ha capito da un giorno all'altro, questo non lo so. Ma sì, certamente, si dice che anche la stessa Ferrari sia stata presa in contropiede. Sai, d'altra parte, voglio dire, entrano molti fattori in gioco. Non dimentichiamo, fra l'altro, ecco, dal punto di vista fisico, Schumacher ha preso una brutta botta in moto tempo fa, e questo sicuramente può avergli lasciato dei segni. Altri segni li ha lasciati l'inattività, altri, come dire, un'anzianità sportiva, perché lui è un uomo giovane, ma è uno sportivo, anzi, vecchissimo, perché aveva già smesso, quindi figurarsi. Tutto questo, secondo me, reagisce con l'orgoglio, no, del vecchio campione, che probabilmente non è neanche che sta tanto male, ma non sta abbastanza bene da poter essere competitivo. Sai, è banale dirlo, ma è nello sport di oggi, se non sei al 100%, certo, al 101%, insomma, no, si viaggia sempre per la performance, per la super performance, e si mette a repentaglio anche la salute mentale e fisica. Io credo che questa sia una scelta, se non ci sono altri retroscena, dei quali non ho notizie per il momento, sì, dei quali non sappiamo, io credo che sia una scelta, insomma, anche coraggiosa, ecco, coraggiosa, molto umana, e va bene così. Io ricordo che l'altra volta c'era sentite, ho detto, le minestre riscaldate forse nello sport non vanno bene, ecco, chissà, forse, insomma, in questo caso anche Michael ha capito che non era il caso di insistere. Senti, invece, caso di Stoner, oggi ne scrivi sul Corriere della Sera, mondo del moto mondiale che conosci come pochi, mistero intorno a, alle condizioni di Stoner. Forse un altro esempio del fatto che sono dal punto di vista psichico e fisico al limite questi ragazzi. Guarda, Stoner è un caso veramente a sé, perché bisogna distinguere, c'è un problema fisico che è quello che i medici hanno riscontrato, cioè l'anemia, la gastrite, che si sposa, diciamo, con i sintomi che lui ha mostrato negli ultimi due mesi da Barcellona in poi, cioè spossatezza, vertigini, insomma tutto questo. Lui veramente vederlo in questi due mesi nel paddock, nel box, era veramente uno strazio, insomma, perché vedevi un ragazzo proprio in condizioni pessime. C'è poi l'aspetto, diciamo così, psicologico, per usare un termine semplicistico ma che ci fa capire di che cosa parliamo, cioè lui ha una testa molto come dire, complicata, se vogliamo, è uno soggetto allo stress, soggetto alle pressioni, molto viene descritto anche come un tipo molto irascibile nel box, ma tutto perché ha anche una ipersensibilità al dettaglio, eccetera. Non ama molto il mondo delle corse, questo va detto, perché è uno che ama correre, ma non ama tutto quello che sta intorno. E sicuramente aver vinto il mondiale per lui in qualche modo gli ha portato una maggiore pressione, una pressione che lui non si aspettava, anche, diciamo, come si usa dire oggi, mediatica, no? di responsabilità, sì, con lo sponsor, tutte queste cose. Casey non è fatto per questo. Lui è un amabile ragazzino di campagna australiano, credo che la città più vicina alla sua fattoria in Australia sta a 3 ore, 4 ore di macchina. Lui ama pescare. Se gli chiedete: ma tu cosa sogni nella vita? Ma io voglio una casa con la canna da pesca, la mia moglie, due animali, capito? Magari un figlio in futuro. Tutto questo disegna comunque il quadro di una persona sensibile e fragile, anche mentalmente, e poi ovviamente c'è il problema fisico. Ora, quindi sono due aspetti, il mistero è che cosa in questo momento sta agendo. Poi sai, ci sono le illazioni, le voci, addirittura ho sentito parlare carriera a rischio, eccetera. Aspettiamo, perché quando c'è di mezzo la salute naturalmente non possiamo permetterci nulla di più di quello che vediamo e ci dicono nei comunicati. Però è un mistero, perché un ragazzo di 23 anni che si ferma, un pilota che si ferma, perché noi siamo abituati a vedere i piloti correre in tutti i modi, no? Certo. Cioè i piloti corrono con le ossa rotte, con le mani legate al manubrio per poter fare la gara. Ricordiamo un Capirossi, ecco, che poi scende, piange, poi scende e sviene, sì, tra le braccia del dottor Costa. C'è tutta questa epica moderna, meravigliosa, retorica anche se vuoi, ma è rischiosissima, no? Rischiosissima, perché correre con le ossa rotte. Allora, però, se un pilota decide di fermarsi, è chiaro che il segnale fa riflettere, no? Fa riflettere in maniera pesante. Vediamo, speriamo, insomma, è una grave perdita. Poi ma questa è l'ultima cosa, insomma, però è anche una grave perdita per il motociclismo, per il mondiale, ma questo, volendo, adesso non interessa. Non interessa, è il pilota più forte che c'è dopo Valentino Rossi, nessuno me lo toglie dalla testa. Intanto sì, leggo, sono d'accordo con te. Liaco Verciano, leggo una dichiarazione di Lippi di poco fa: Schumacher è una persona talmente intelligente che qualsiasi scelta dovesse fare risulterebbe sicuramente la migliore, secondo me però il suo dietro front non è definitivo, dice Marcello Lippi. Ma senti, guarda, io francamente io ho sentito la prima parte, io ero lì, quindi non mi sembra che Lippi abbia detto che non è definitivo. Ha detto invece, però non voglio, come dire, consultare il collega che l'ha scritto. La leggo così. Certo. Sicuramente ho sentito questo, ero lì, credo che siano d'accordo, no? Insomma, quello che si diceva, un uomo dell'esperienza di Schumacher sa quando deve fermarsi. Spero che sia così anche nel caso di Stoner. Non vorrei che invece, sai, Stoner non ha l'esperienza di Schumacher, non so se conosce il proprio limite. Certo. Non vorrei che fosse invece un momento invece di cedimento, cioè anziché di lucidità come quello di Schumacher, un momento invece di profondo cedimento. Sai, sono successi dei casi. rimanendo al motociclismo, ricorderai Poggiali che certo, campione del mondo, grande talento, eccetera eccetera, ma persona anche lui sai, poi si usa dire complicato e vuol dire tutto e vuol dire niente, mi rendo conto, estremamente, no? Però, insomma, fragile, rapportato ad un ambiente spesso, ecco, di squali come quello dell'agonismo. Esattamente, sai, l'ambiente dello sport è questo, come dici tu, lo squalo, poi c'è la ricerca della competitività, della performance, la dimensione economica, tante volte sembra che il ragionamento o la parte interiore non sia concessa agli sportivi, no? Giustamente tu citavi la depressione di Buffon, questo sorprende perché si è abituati a vederli per quello che appaiono, per quello che fanno, no? Pensare a un Buffon depresso pensando a quello che fa in porta, sì, come dire, collide, no? Nella nostra mente, poi, sai, la persona normale, come, la persona normale, esatto, dice, beh, depresso lui, dovrei essere depresso io, invece poi, no, non, esatto, è così, è una lettura un po' semplicista, che purtroppo è un luogo comune, sono depressi le rockstar, le persone ricche, i poveri, sì, possiamo, sì, esserlo tutti e nessuno, questo poi non si sa cosa c'è dentro le persone, allora, non voglio fare, però è così, banalmente, e quindi appunto Poggiali ebbe anche lui questo tipo di problemi, sai, il motociclismo è uno sport che sollecita, che tu non puoi correre a 300 all'ora se non sei al top, se non sei al top dal punto con il corpo e con la testa, è evidente che tu non possa sfiorare, superare il limite umano se non sei al 101%. Alessandro, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie a te. Mi stavo leggendo anche i messaggi, ma Stoner non è che sia in queste condizioni perché la Ducati è pesante da guidare, scrive, domanda Stefano da Mantova, non credo, perché sono diversi e più complessi, non sono problemi articolari quelli di Casey Stoner, sono problemi di altra natura. Paolo da Prato, stamani mi sono svegliato con questa notizia, via Michele, come la fine di un sogno, una botta tremenda al circo della Formula 1. 800240024 per le vostre chiamate, mi sa che a questo punto però abbiamo bisogno di un dottore. Pertanto saluto e ringrazio il dottor Gianluca Melegatti, che è responsabile del centro di riabilitazione sportiva dell'Istituto Galeazzi di Milano, ma anche e soprattutto responsabile della nostra nazionale di rugby, è il medico della nazionale. Buongiorno a lei, uno che di problemi di collo se ne intende come nessuno, l'impressione, perché il principale problema dei rugbisti sta proprio nelle botte che pigliano in quella zona del corpo. In effetti c'è una sorta di analogia tra quello che succede, che è successo a Casey Stoner e l'ambiente del rugby, nel senso che si sta parlando di attività sportive al limite, si sta parlando di attività sportiva, di prestazioni che in qualche modo prevedono un certo grado di rischio naturalmente importante sui circuiti automobilistici o motociclistici, rischio un po' meno importante fortunatamente, ma sempre di rischio si parla quando parliamo di rugby, ci sono di mezzo delle motivazioni che spingono gli atleti di rugby di un certo livello, così come i motociclisti, a spingere a entrare in pista e ad affrontare curve a 200 all'ora, così come i rugbisti devono affrontare avversari forti fisicamente, con una certa carica di aggressività, beh, ci devono essere delle motivazioni importanti. Quando vengono a mancare queste motivazioni, ci può cadere in una situazione come quella in cui è caduta Casey Stoner. Non è raro, mi è capitato di vedere nella mia carriera atleti che hanno avuto questo tipo di problemi che magari nascono da un fatto fisico, organico. Sì, si è parlato nel caso di Stoner di un'infezione, di un virus virale. Beh, questo potrebbe essere stato il fattore scatenante che l'ha portato in questa situazione, diciamo, di male oscuro. Teniamo presente che quando uno sta male fisicamente e non riesce più, è possibile che non riesca più a trovare le motivazioni e la confidenza necessaria e la fiducia necessaria per riprendere i suoi livelli e quindi entra in un circolo vizioso che molto spesso sfocia in questa sindrome, perché è una vera e propria sindrome, che può essere per esempio come la sindrome da overstress, certo, è una sindrome da stress psicofisico, ed è possibile che a Stoner sia successo questo. Quanto invece a Schumacher, dottore, Schumacher, insomma, se non riesce a gestire questi problemi al collo, che erano la grande incognita, forse l'unica grande incognita sul suo rientro, vuol dire che uno come lui proprio non ce la fa, perché sì, è chiaro, d'accordo, che le sollecitazioni sono mostruose, non credo sia un problema risolvibile, quantomeno risolvibile in breve tempo. Io, ecco, ha detto bene lei, probabilmente è un problema risolvibile dato lo spessore dell'atleta e dell'uomo di cui stiamo parlando, però non in tempi brevi. Allora ci vuole una preparazione alle spalle per controllare le sollecitazioni in un abitacolo di una Formula 1 che noi neanche ci immaginiamo. Cioè non si possono inventare, a mio parere, in due mesi. Ci vuole una preparazione che deve essere una preparazione importante di mesi e mesi di lavoro. Quindi non escludo che Schumacher possa ritornare a correre, però con i tempi, con i dovuti tempi e la dovuta preparazione. Certo, poi a lui la motivazione non manca. Lui è uno che nel suo fisico ha fatto veramente sempre un cavallo di battaglia, è sempre stato perfetto fisicamente. Sì, sì, certo. Non ho dubbi che possa ritornare, però naturalmente con i tempi e con le terapie dovute. Naturale. Sportivi al limite comunque, forse oltre il limite. In questi giorni, insomma, Schumacher è di oggi, Casey Stoner di ieri, ma nei giorni scorsi sono state notizie ben più gravi, ben più drammatiche. Sì. No? C'è un funerale in Spagna di un giocatore professionista di 26 anni. Ricordavo prima, 28 agosto 2007, Antonio Puerta aveva 22 anni, difensore del Siviglia, morì nel modo che ci ricordiamo. Ma citavo prima anche i casi di Federica Pellegrini, che per le medaglie d'oro è dovuta passare attraverso un tunnel. Citavo prima i casi di depressione da Pantani a Buffon ad Adriano, e molti dicono: ma se sono depressi loro, figurati cosa dovrei essere io. Non è una questione di vita, di soldi o di divertimento. Certo, poi quando abbiamo a che fare con queste situazioni così drammatiche come la morte di un atleta che dovrebbe rappresentare una macchina perfetta, come del resto lo è, probabilmente lo era, e ci vengono un sacco di domande anche a noi addetti ai lavori. Allora io non ho motivo di dubitare che all'Espagnol, come a tutti i grandi club europei, si facciano delle valutazioni preventive, soprattutto dal punto di vista dell'apparato cardiovascolare. Non ho motivo di credere il contrario, di pensare il contrario. Ma allora mi chiedo perché succede questo. È difficile condire la storia con una. Sono cose che succedono anche agli atleti di alto livello. Forse il livello di prevenzione o il livello di indagine a cui sono sottoposti non è sufficiente. Sia in Spagna e probabilmente anche in Italia, anche se sia in Spagna che in Italia si fa parecchio per la prevenzione. La nostra medicina dello sport è una medicina all'avanguardia, però purtroppo siamo sempre qui a farci delle domande e a far fatica a capire perché una cosa del genere succede. Quindi al di là del coinvolgimento emotivo che in tutti noi che ci occupiamo di sport ad alto livello capita, dovremmo veramente valutare a mente fredda e capire se c'è uno spiraglio per migliorare ancora di più la prevenzione che facciamo. Perché sa, quello che è successo a Daniel Jorge è una cosa che in genere succede a uno che ha una base patologica, che ha una qualche patologia cardiaca, ma come le dicevo prima non ho motivo assoluto di credere che lui ce l'avesse. Sì, allora le domande vengono spontanee. Questo ma perché succede questo? Questo è evidente. Lei diceva prima, gli sportivi sono comunque delle macchine perfette. A me è rimasta impressa e mi rimarrà impressa per sempre una frase di Carlo Ancelotti di qualche anno fa. Era il periodo in cui, insomma, c'erano state, magari qualcuno se le ricorda, quelle immagini di Cannavaro che faceva la flebo, un sacco di polemiche. E mi ricordo, l'unica cosa che mi ricordo fu questa frase di Carlo Ancelotti: toglietevi dalla testa il fatto che gli sportivi siano delle persone sane. Ancelotti disse questo, perché la persona sana è quello che va a fare la corsa nel parco tutti i giorni e si tiene in forma. Lo sportivo professionista che usa il suo corpo oltre al limite e forse oltre il limite non è propriamente una persona sana. Disse questo Ancelotti. Guardi, lei apre una porta che a me piacerebbe veramente che rimanesse spalancata, anche perché c'è tanta demagogia su questo aspetto e tanto fumo. Intanto quello che dice lei è vero in parte. L'atleta dobbiamo considerarlo come una persona sana. Il fatto è che l'atleta è sottoposto, chi più chi meno, dipendentemente dal tipo di sport, a degli stress importanti e l'atleta ha bisogno di recuperare. Molto spesso quello che manca è una buona programmazione del recupero degli atleti. Ancelotti non a caso diceva questo. Ancelotti diceva questo perché il calcio di oggi, così come il rugby di oggi, è portato al limite e si gioca troppo e ci sono troppe occasioni traumatiche. È una macchina che è sempre. Lei immagini di guidare una macchina che fa 180 all'ora e di guidarla sempre a 175 all'ora, se non a 180 all'ora. Questa macchina si usura, ha bisogno di recupero E quello che a noi manca nello sport professionistico adesso sono i tempi di recupero adeguati. È qui dove dobbiamo agire, a mio parere. Dottore, io la ringrazio tantissimo. Davvero. Grazie a voi. Grazie a lei. Buon lavoro Gianluca Menegatti, che ricordo è medico della nostra nazionale di rugby. Abbiamo un ascoltatore prima di fermarci per la pausa della borsa. Erano due, una è caduta, adesso lo recuperiamo. 800 24 00 24, il numero verde. Andrea da Como, buongiorno. Buongiorno, due cose molto rapide. Una mi piacerebbe sapere da lei, ma semplicemente perché non ne parla mai nessuno, perché si parla solo di Inter, Juve e Milan, il valore che lei attribuisce quest'anno al Palermo, che a me sembra solo, insomma, un secondo palermitano nonostante l'accento lombardo. Sì. Perché sulla carta è sempre molto buono inizio anno, poi sembra quasi che non mantenga le promesse. A me sembra molto buono, mi sembra di avere un suo parere così da appassionato di calcio. Sì. Insomma, sì. L'altra cosa è una considerazione amara e triste: se ci fosse stato Lippi 20 anni fa non avremmo mai avuto Maradona, George Best. Cioè, mi sembra veramente una mortificazione del genio, parlo di Cassano ovviamente. Ah. Cioè, veramente è una roba soprattutto triste, al di là del valore che non è quello di Maradona, di George Best o di altri pazzi scatenati che però con la palla ci facevano quello che volevano. Veramente di una tristezza, mamma mia, proprio triste pensare che per questa menata del gruppo geni come Cassano non siano in nazionale. Però guardi che per questa menata, che la menata del gruppo è qualcosa di importante, eh? Non è un dettaglio secondo me. Io penso che, insomma, io lo convocherei Cassano, però io non sono CT della nazionale e soprattutto non conosco le dinamiche di quel gruppo. Stiamo parlando di altri argomenti, ma naturalmente vale tutto. L'happening radiofonico è bello proprio per questo. Però queste menate del gruppo nello sport professionistico di oggi credo che siano qualcosa di determinante. Mi limito a leggere un collega di riferimento come Mario Sconcerti di oggi sul Corriere della Sera, titolo: esclusioni inevitabili, ma almeno su Totti è il caso di ripensarci. Scrive Sconcerti, lo leggo perché condivido: Cassano è ormai un caso eccezionale di portatore di discordia. Ci sono stati allenatori che si sono dimessi per non allenarlo più, disfatti dalla sua presenza. Nessuno sa esattamente cosa faccia Cassano durante il giorno, nel rapporto quotidiano con squadre e tecnici, ma quelli che giocano a scansarlo sono ormai una maggioranza imbarazzante. Logico che una pura espressione democristiana, tra virgolette, come la nazionale, non possa che comportarsi così. Credo che Marcello Lippi abbia tutti i diritti, forse anche il dovere, di operare una scelta di questo tipo. Non si tratta soltanto di un giocatore di enorme talento, si tratta di un giocatore che, insomma, le prove di prove ormai ne abbiamo a bizzeffe nella sua carriera calcistica. Porta in dote, oltre a una squadra, oltre al suo talento, una difficoltà notevole di inserirsi nel gruppo, un circo mediatico molto difficile da gestire, ed è anche giusto fare i conti sul fatto: è conveniente o no, conviene o no disporre a questo prezzo del talento di Cassano? Non lo so, però Lippi ha tutto il diritto di fare le sue valutazioni. Antonio da Roma, poi c'è la borsa. Ecco, sì, pronto? Eccomi. Buonasera, guardi, praticamente mi ha prevenuto l'interlocutore precedente. Sono un barese. Sì. E sono onorato di essere partecipe di un giocatore che è stato definito un giocatore ingombrante. Ecco, io sono un tifoso ingombrante come tutti i tifosi di Cassano. Lippi credo che sia amico di merenda di Moggi, e non lo dimentichiamo. Dopo lo schiaffo con l'Egitto preso in Sudafrica, non credo che possa parlare di psicanalisi o psicologia. Abbiamo un novello Nietzsche o un altro novello Freud che si occupa adesso di psicanalisi. Lasciamo stare Nietzsche, Freud e tutti quanti. Lippi ha semplicemente detto che contano valutazioni tecniche e psicologiche nella convocazione di qualunque giocatore. Però la domanda che vi faccio io è: perché Cassano alla fine e a quest'età gioca meravigliosamente nella Sampdoria e non nel Real Madrid, dove era andato a giocare? Real Madrid non ci sono andati tutti i giocatori italiani. Quindi no, nel Real Madrid non ci sono andati tutti gli italiani. È un punto a favore di Cassano quello di essere andato nella più grande squadra del mondo. Perfetto, e là è l'esperienza di Cassano è stata, diciamo, la parola giusta è fallimento, perché poi è tornato per giocare a Sampdoria. E ora vi chiedo: perché gioca nella Sampdoria e non gioca nel Real Madrid, che l'ho acquistato per un sacco di soldi? Dando un'occhiata ai messaggi, a me sembra che Schumacher abbia giustamente valutato indispensabile provare la macchina 2009 prima della gara. Niente prova, niente pilota, scrive Giuse da Savona. Oppure Paola ha ragione nello scrivere la menata del gruppo, come diceva l'ascoltatore di prima, ci ha fatto vincere una Coppa del Mondo. Ma sì, ma è alla base dello sport di oggi, di ogni successo in uno sport di squadra. Non ricordo squadre spaccate al loro interno nelle quali non ci fosse armonia, capaci di vincere qualcosa di importante. Vorrei restare sul tema Schumacher, Casey Stoner. Naturalmente sono le due storie di oggi, quella di Schumacher freschissima, la sua rinuncia al volante della Ferrari. Non so se abbia valutato indispensabile provare la macchina del 2009. Mi limito a notare, come facevo prima, che insomma, vi leggo l'attacco dell'articolo di oggi sulla Gazzetta dello Sport, lo scrive Alessandro Stefanini. Ed è questo: casco nuovo, tuta e guanti. A 9 giorni dalle prime prove libere del Gran Premio d'Europa, che segneranno il suo rientro ufficiale in Formula 1, Michael Schumacher questa mattina si presenta al Mugello e, come era già successo, il 31 luglio si carna nell'abitacolo di una vecchia F2007, la monoposto che 2 anni fa vinse il titolo con Raikkonen e che pare gli sia stata messa a disposizione da un amico collezionista svizzero. Titolo: Schumi paga il test, 180.000 euro di tasca sua, scrivono su questo articolo. E invece, improvviso, ed è questo, anche questa, come dire, questa stranezza temporale che mi mette molti pensieri, Schumacher dice: no, non ce la faccio. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Carlo. Ha sorpreso anche te questa retromarcia velocissima di Schumacher, e credo anche la Ferrari, eh? Diciamo che è una notizia scioccante veramente, perché mentre quella di Stoner in un certo senso era prevedibile, dato che da varie gare non si sentiva in buone condizioni di salute, questa di Schumi, è vero che in alcuni dei comunicati dei primissimi giorni era precisato sempre, sì, dipenderà da quello che dicono i medici in funzione delle conseguenze dell'incidente motociclistico. E quindi lui ha ribadito anche nel suo comunicato, appunto, esistono ancora delle residui di fratture al cranio, eccetera, per cui insomma evidentemente non riesco a resistere a queste accelerazioni laterali sul collo per tutta la gara. E è chiaro che si fa sempre poi si va a studiare quale potrebbe essere la vera ragione, la non competitività della macchina, per cui lui potrebbe aver pensato di andare comunque a fare una brutta figura, per cui ha ritenuto che forse doveva dare ragione ai medici. Ecco, quello che io credo è che comunque la verità sia quella che lui ha detto. E prima di tutto perché in tutta la sua carriera è sempre stato uno che ha fatto delle affermazioni, come del resto Lauda, come in genere diciamo i teutonici, ha detto la verità. È chiaro che probabilmente ci sono tutt'attorno delle altre ragioni che hanno consigliato di far prevalere la giusta indicazione dei medici. Io penso che sia quello. Certo, a proposito della sincerità, noi siamo molto dubbiosi. Consentimi di ricordare un piccolo aneddoto a proposito di Mario Andretti, il quale un giorno mi disse, non so per che motivo era in discussione qualche cosa che lui aveva detto, dice: voi italiani non dite mai la verità. Io le dico sempre, così ho un doppio vantaggio: la prima è che vi spiazzo perché non sapete che cosa ho in realtà detto e non lo prendete per vero; la seconda perché fate brutta figura, perché poi vedete che ho detto la verità. Qui sembra una situazione dello stesso tipo. A proposito di Andretti, Mario, mi viene in mente ci sono piloti che sono andati avanti a correre per molti e molti anni, ben oltre i 40 di Michael Schumacher, magari non più in Formula 1 negli Stati Uniti. Mario Andretti, Fittipaldi, i primi due che mi vengono in mente, però insomma, tutto sommato, per un pilota i 40 anni, insomma, non dico che è anagraficamente giovane per essere un pilota, però tutto sommato non è in un'età da pensione assoluta. Infatti, come dici tu, hanno continuato a correre, ma tranne i tempi di Fangio, cioè i tempi aurei in cui si correva appunto a età piuttosto avanzate, adesso francamente è superati i 35 anni e diventa veramente difficile anche trovare il posto. Cioè, tieni presente che Fittipaldi per esempio ha dovuto fare la Copersuca con i soldi suoi, sì, non solo con i soldi dello zucchero. E già che stiamo parlando di sponsor, mi viene in mente, tu pensa a Losanna, il principale sponsor della Ducati e della Ferrari, che cosa starà pensando? Mamma mia. E a proposito di fortunati e sfortunati, sono stati fortunati quelli di Valencia, che probabilmente hanno già venduto molti biglietti. C'è già una fila, fortunati e sfortunati, bel giochino anche questo. Quelli che non avevano preso impegni per il 22-23 agosto forse sono ancora in tempo a passare il confine. Quelli che si erano svenati per i biglietti di Valencia, ma anche per quelli di Monza, Beh, a quel punto credo che non possono più passare da una colonnina all'altra. Dove rimettiamo Mosley ed Eccleston? Che avessero potuto, andavano loro a spingere la Ferrari di Schumacher con le loro braccine. Sicuramente, ma ce l'avevamo detto la settimana scorsa, appunto, è un colpo eccezionale il rientro di Schumacher, perché cancella tutti i malumori che ci sono in giro, perché tutti hanno un beneficio da questo ritorno. Adesso c'è, diciamo, lo shock di ritorno, che però tutto sommato in qualche modo la situazione l'avrà modificata. Sì. Se ne parlerà a lungo, insomma, servirà a mascherare un po' di problemi che sotto sotto ci sono e che probabilmente col tempo torneranno fuori. Certo, adesso avremo bisogno un po' tutti di uno psicologo, perché insomma c'è l'onda di reflusso, grande entusiasmo per il ritorno di Schumacher, adesso Schumacher non corre più, tutti depressi. Mario, credo che ti farà piacere salutare il dottor Claudio Costa, il doc del Motomondiale, come tutti sapete. Buon pomeriggio, dottore, grazie. Buonasera, ciao a tutti, ciao Mario. Ciao Claudio, mi fa piacere sentirti, anche perché in un certo senso hai una lontanissima, si fa per dire, corresponsabilità, perché pare che i traumi di Schumi siano legati a un incidente motociclistico. Tu ne sai qualcosa? No, io devo ammettere con molto candore e con molta sincerità che io non conosco il caso. Tu reputi, siccome tu sei sempre uno strenuo difensore del coraggio dei motociclisti, in una situazione come questa tu cosa avresti consigliato, per quello che si sa, a Schumi? Come mi hanno detto gli medici, cioè tu ritieni che questo fatto, appunto, del collo che non riesce a sopportare per tutto l'arco della gara queste accidenti? Facciamo una premessa di grande serietà, non conoscendo il caso, non parliamo del caso. Quindi in linea generale posso dire questo, che per quello che mi riguarda, per la mia esperienza negli sport motoristici, quello che è il collo, specialmente nelle gare di automobilismo, è molto molto sollecitato. E anche un collo normale deve fare delle preparazioni molto particolari. Io ho seguito qualche pilota di Formula 1, una volta Piquet mi ha portato in Brasile perché lo potessi seguire, e quindi abbiamo messo a punto tutto, anche fra le altre disgrazie che aveva avuto, fratture decostali, per recuperarlo in fretta. Voleva anche dei consigli in particolare per un allenamento strenuo, intenso e diligente sul collo. Inoltre tutto, quelli che sono i muscoli del collo hanno anche una caratteristica anatomica molto sfavorevole, cioè mentre tutti i muscoli fuori dello scheletro si inseriscono con un tendine, e pur dando un po' di fastidio l'inserzione, perché tutti conoscono la patologia inserzionale, tendinopatia inserzionale, i muscoli del collo si inseriscono senza tendini, per cui sono molto più innervati e quindi fanno molto molto molto male anche un collo normale. Quindi se in un incidente motociclistico ha riportato un trauma al collo, eventualmente con danni scheletrici, questi non sono altro che la testimonianza che la lesione, anche di lesione capsulo legamentose, delle articolazioni che non sono sempre fatte molto bene, e di solito posso dire che un collo normale normalmente può far male sia per guidare la moto, in particolare l'auto, quindi figuriamoci lui che può aver avuto una storia sia di corse molto lunga, con una carriera strepitosa, meravigliosa, fantastica, però adesso sicuramente l'età, sicuramente i traumi, sicuramente è quello che è questo sport che sollecita molto il collo. Questa è una mia divagazione, sì, che uno la deve prendere per quella che è. Può essere la condizione che lo costringono a non correre. Ecco. Certo, naturale, si diceva prima che devono essere al 101%. Uno dei suoi abituali pazienti, dottor Costa, di cui volevo chiedere un'opinione, ovviamente Casey Stoner. Dunque, Casey Stoner, secondo me, tutte le volte che dicono che c'è gastrite, lo sapevamo già, quando dicono che c'è una geremenia, c'è, ma non è neanche anche molto modesta. Quando lui arrivò alla fine della gara di Barcellona, che fu il momento che ci si allarmò per le condizioni che lui presentava alla fine della corsa, io parlai insieme agli altri medici di una gastroenterite virale. Ora, il discorso di oggi, secondo me il virus ormai è diventato il colpevole, però credo che lui avesse una situazione che la ferita, il virus è dell'anima, diciamo. E questo può nascere dal fatto che ha avuto un inverno difficilissimo con 5-6 mesi, no, quasi 4-5 mesi di immobilità per il polso, e quindi questo lo può avere stressato molto, e quindi dopo venendo a correre si è trovato in una condizione, diciamo, sia di un inverno che non aveva fatto la preparazione, di una situazione che poi gli sono arrivati addosso alcuni accidenti, fra cui questi virus, queste gastriti, queste cose, e alla fine si è esaurita l'anima, cioè quello strumento meraviglioso che fa accettare le cose anche difficili e accettarle, proprio perché da grande campione avrebbe potuto fare dei bellissimi risultati, perché fin dei conti aveva già vinto due gare. Sì, io ho un sacco di messaggi anche in proposito, cioè chi parla, diversi ascoltatori parlano di valentinite, cioè che questo virus sia il fatto che Valentino l'ha alla fine anche distrutto moralmente con questa stagione. C'è chi parla di il declino di Stone è iniziato a Laguna Seca dopo il sorpasso al Kawasaki da parte di Rossi, le parole volute mettere in bocca da parte della Ducati, lo scrive un ascoltatore di Torino. Volevo chiedere ancora una cosa al dottor Costa sulla scorta di questi messaggi di prima di valentinite, perché esistono, insomma, io ricordo, ne parlavamo anche prima con Alessandro Pasini, di un Capirossi che scende dalla moto con un braccio rotto e praticamente le sviene tra le braccia. Ricordo una miriade di piloti che le ha messo in condizione di correre quando erano reduci da incidenti freschissimi e più o meno gravi. La mia impressione, dottore, mi corregga se sbaglio, è che Casey Stoner non potesse andare avanti a correre in quelle condizioni. Noi dobbiamo fare anche qui una precisazione molto, molto umana e di grande rispetto per questi eroi dello sport, in particolare dei motori. Non sono io che metto in grado i piloti di correre. I piloti hanno una volontà irrazionale che normalmente tutti, direi quasi tutti, poi ci sono delle eccezioni, hanno quelle due famose parole "voglio correre", che li mette già sulla strada del successo, attingendo a tutte quelle ricchezze, a quella passione, a quella forza del cuore, a quella forza d'animo che gli permette di fare l'impresa. E noi non siamo altro che coloro che vicino li aiutiamo più con quello che è, diciamo, la scienza, l'arte, la medicina, quello che è. E quindi fondamentalmente Capirossi è la favola di se stesso, e mentre racconta se stesso la sua favola, la racconta anche tutti i telespettatori, come tutti gli altri piloti che hanno corso con le fratture, come Lorenzo dopo la caduta di Laguna Seca, che sembrava che fosse impossibile che rimontasse sulla moto, ha fatto una cosa meravigliosa il giorno dopo, combattendo a livelli incredibili. Grazie dottore. Ma Casey Stoner era in grado di continuare? È quello che le ho detto adesso. Se Casey Stoner viene e dice, a parte il fatto che io in questa faccenda sono stato molto distante, perché mentre lui stava male a Assen io operavo Caglio e dopo l'ha seguito il medical director, il dottor Claudio Mattia Gorana, mentre io seguivo Lorenzo. Sì. Ma se lui venisse qui da me e dice "voglio correre", a quel punto la sua favola sarebbe già scritta. Grazie dottore, buon lavoro. Prego, grazie davvero. Dottor Claudio Costa, Mario Poltronieri, che ne pensi? Io ti leggo invece cosa dice il dottor Macchia Godena, collega del dottor Costa. Sono stato vicino a Casey per una settimana. Ha 22 anni ma ha già accumulato la fatica di una persona di 50. La sua non è una crisi acuta, ma ha già fatto emergere episodi a livello di stomaco, anemia, dolori vari, sui quali deve andare a fondo e non con esami episodici come ha fatto sin qui. Un mese di riposo, tornerà in forma, eccetera. Cosa ne pensi, Mario? Se si trattasse della tanto discussa mononucleosi, probabilmente il riposo basterebbe. Si tratta di vedere invece se ci sono altri motivi, sia agonistici sia di altra origine, che lo hanno messo in una condizione di stress che non può essere superata col semplice riposo. Quindi secondo me il discorso Stoner è piuttosto difficile da sviscerare adesso. Non dimentichiamoci anche Cicchinello, che era quello che l'aveva lanciato praticamente con la Honda prima che passasse alla Ducati, e diceva sì, ci sono dei momenti in cui ha, non dico delle stranezze, ma comunque dei malumori, degli atteggiamenti che denunciano un temperamento, un carattere con qualche spigolo. Quindi anche questo può contribuire a rendergli difficile il reinserimento in un ambiente quale quello agonistico. Io penso che abbia bisogno di riposarsi anche più tempo, cioè secondo me lui deve addirittura ricominciare da capo, cancellarsi tutto, resettare. E ricominciare e ricominciare ricominciare con l'entusiasmo di quello che comunque sa guidare una moto che adesso purtroppo non ha più un competitore così importante, non solo per la lotta mondiale ma per essere ai vertici, perché Caglio prende il suo posto, conosce già la Ducati del team Satellite, ma sì, non è ancora nelle condizioni di reggere la corsa ai vertici, quindi per la Ducati è comunque anche questo un grosso danno, così come per la Ferrari, che naturalmente, giustamente secondo me, ha preferito premiare Badoer. Certo. Anche se dal punto di vista squisitamente sportivo poteva essere giusto prendere in pilota l'altro collaudatore, cioè Marc Genet, che ha corso fino al 2004, oppure, come molti sosterrebbero, far correre l'italiano. E probabilmente era una buona occasione tutto sommato, perché se si ha una macchina che non si ritiene che sia altamente competitiva, va bene, facciamo correre un collaudatore il quale poi ci dirà quello che però tutto sommato ci ho detto mille volte provando a Fiorano. Ma l'impressione comunque, la decisione della Ferrari a questo punto è stata quasi obbligata, cioè Schumacher comunica ieri sera, perché questa è la cronistoria, comunque ieri sera a Montezemolo ai vertici della Ferrari: guardate, non ce la faccio, e allora si va immediatamente su Badoer, anche perché non c'era tempo per esplorare altre soluzioni. Tante sono le reazioni. C'è stata una dichiarazione di Ralf Schumacher: è un dispiacere per tutti quelli che avevano gioito per il ritorno di Michael, ma la sua decisione deve essere accettata da chi gli sta vicino. È assolutamente chiaro che una dura prova di Formula 1 non è possibile se le condizioni di salute non lo permettono. C'è Hamilton che dice correre con lui sarebbe stato un onore, eccetera eccetera. Io sono molto curioso di vedere a questo punto le reazioni di un mondo della Formula 1 che era gasato a mille dal ritorno di Schumacher. Quali saranno le reazioni per una Formula 1 che improvvisamente, insomma, finisce questa meravigliosa storia estiva e deve tornare nel suo brodo con i suoi piccoli o grandi problemucci, insomma. Beh, però diciamo dal punto di vista agonistico, certo, c'è anche il colpo eccezionale del ritorno di Schumi, però la corsa direi che sarà comunque valida. Semmai ha perso di più il motociclismo, tutto sommato, perché Stoner era uno dei tre grandi protagonisti, perché Pedrosa non lo riesco ancora a vedere così allo stesso livello. Non è probabilmente la cattiveria, la stoffa, lo sappiamo bene, ma su Stoner sono d'accordo con te, Mario. Dal punto di vista strettamente agonistico, la defezione anche nella corsa verso il mondiale di Stoner è più pesante rispetto all'ingresso di Schumacher, che sarebbe stato comunque il grande colpo estivo, il grande sogno estivo. Per sostenere e per chiudere, gli ascoltatori insistono sulla Valentinite, però. Scusate, ma non è più il suo tempo, non ha scalzato Rossi, ora si ritrova un pilota sportivamente molto arrogante come Lorenzo, scrive un ascoltatore di Parma, Chris. Insomma, è stato un po' distrutto forse dagli eventi, dalla pressione, dagli avversari, non è riuscito a reggere anche questo impatto con piloti come Schumacher e come l'emergente Lorenzo, che sono dei duri anche mentalmente. Infatti. Beh, insomma, auguriamoci che Stoner torni quello di un tempo. E quanto a Schumi, ma secondo te è finita per Schumacher? Cioè, ci riproverà, potrebbe riprovarci, oppure definitivamente? Ma magari non è da lui, ma magari gli viene questo raptus e si prepara scientificamente con la macchina ad hoc, e si tratta di vedere se la Ferrari ritiene poi, anche perché si era parlato di una terza macchina Ferrari, quindi in funzione del fatto che all'anno 21 dovranno correre comunque almeno 20 macchine, e c'è sempre il timore che qualche squadra, nonostante abbia firmato il patto della Concordia per arrivare fino al 2012, e decida poi invece per situazioni finanziarie che ben sappiamo di non correre. A questo punto, per mantenere il numero delle macchine, qualcuna delle grandi squadre potrebbe mettere una terza vettura, e si è ipotizzata questa terza Ferrari per Schumi. Può anche darsi che lui decide di prepararsi. Li vediamo, come diceva prima il professor Melegatti, insomma, sono infortuni magari anche risolvibili, ma che richiedono una lunga preparazione specifica, e questo tempo, al di là di tutte le altre varie considerazioni, a Schumacher non era concesso, visto il calendario. Mario, ti ringrazio, ci sentiamo comunque al più tardi nel weekend per le moto. Anche senza che esista Stoner, c'è una gara a Brno che sarà importantissima per gli equilibri del mondiale. Chiudiamo con gli ascoltatori, io direi. 800 24 00 24, numero verde. Michele da Torino, poi Stefano dalla provincia di Savona, e poi scade il tempo. Michele, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo intervenire sulla questione Cassano. Sì. Sono un po' sconcertato a sentire certe dichiarazioni. Lei ha detto quanti giocatori, come mai non gioca nel Real Madrid? Sì. Mi risulta che parecchi giocatori non giocano più nel Real Madrid, nonostante abbia vinto il campionato. Sì. Allora mi dico un'altra cosa, come mai gioca ancora nella Sampdoria? Beh, innanzitutto sono soltanto un anno e questo è il secondo che dovrebbe giocare nella Sampdoria, quindi non è che sia tanti anni, e mi sembra che è molto rispettato da tanti, da grandi giocatori, da grandi squadre. E quindi insomma il valore è indiscutibile. Se vogliamo ancora attaccare Cassano con il suo comportamento e quant'altro, cioè dal fattaccio che giustamente ha pagato, come giusto che sia, quale? Quello di Torino, contro il Torino, che ha preso le sue 5 giornate, mentre sì, qualcuno nella finale di Coppa del Mondo ha preso solo 2 giornate per una cosa molto più grave, sì, ma comunque giustamente ha pagato. Da allora, se non sbaglio, il signor Cassano ha preso soltanto un cartellino giallo. Ora, se deve fare il chirichetto in chiesa per tutto il resto della sua vita per giocare in nazionale, è un grande giocatore. Ma non c'è dubbio, Michele, però allora torno a domandarle, a lei e agli altri ascoltatori, perché gioca ancora la Sampdoria? Terza stagione nella Sampdoria, ultima stagione favolosa, si muove Ibrahimovic, si muove Eto'o. Si muove forse Ribéry, si muove Malouda, si muovono tutti i grandi giocatori d'Europa, e perché Cassano, che pure la Sampdoria in cambio di adeguata contropartita economica avrebbe ceduto al miglior offerente, una grande squadra, all'Inter, alla Juventus, a chi volete voi, mille chiacchiere sono state fatte, Cassano riparte dalla Sampdoria, perché? Certo, guarda, vedo con piacere che lei ha paragonato Cassano ai più grandi giocatori che sono in circolazione, quindi siamo d'accordo. Dal punto di vista del talento siamo d'accordo, se però un allenatore dice un giocatore di questo tipo con un talento mostruoso nella mia squadra, nel mio gruppo, non ce lo vedo, e non lo dice solo Lippi, mi pare che lo dicano altri grandi allenatori d'Europa, se è vero che Cassano giocherà ancora nella Sampdoria. Detto questo, io Cassano lo convocherei, però rispetto alla decisione di Lippi che dice un giocatore così che mi porta comunque un sacco di pressione mediatica, che mi porta magari ai problemi spogliatoi, un giocatore così che alla fine la sua storia in nazionale con Trapattoni, con quelli che sono venuti prima e dopo, con Donadoni, non è stata fortunatissima, perché anche lo stesso Donadoni, che poi l'ha recuperato in extremis agli europei, l'aveva convocato alle prime partite e poi l'ha rilasciato a casa. Insomma, ci saranno dei motivi o no? Stefano, provincia di Savona, buongiorno. Ecco, sì, parliamo di questi motivi, perché noi bisogna dire, innanzitutto la Sampdoria c'è una clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro, per cui se una squadra qualsiasi va dalla Sampdoria... E non mi sembra una follia, eh? 20 milioni di euro è il prezzo di Aquilani, eh? Io dico, sono d'accordo con lei, grandissimo giocatore, la gente vada nel campo d'allenamento della Sampdoria a vedere gli allenamenti e si renderà conto di per quale ragione tante volte la gente non prende Cassano. Cioè? No, vadano a vedere, non mi piace dire delle cose, perché lui ha un atteggiamento particolare, si allena meno degli altri, tende a fare le cose sue, è un elemento che nel gruppo può creare dei problemi, e tanti allenati, siccome il gruppo è basilare, e nella scelta delle vittorie sportive a Genova si sa che lui è uno fatto a modo suo, c'è la sua testa, c'è il suo preparatore, c'è il suo allenatore, si allena lui e c'ha le sue cose, e questo un allenatore che vuol tenere un gruppo messo insieme può anche non accettarlo, e bisogna accettare questo ragionamento. Bravissimo, avete capito? Stefano, lei va a vedere gli allenamenti della Sampdoria? No, io no, sono genuano, guardi. Però genuano. Se ne parla molto a Genova di questo problema, e sa, le cose si sanno poi nelle città più che fuori. Ma è chiaro, lei ha ragione. Cioè, il discorso che faccio io è questo: anche a me Cassano piace da morire. Anch'io, a vedere le cose all'esterno, a vederlo sul campo, soprattutto in certe domeniche, lo vorrei sempre nella mia squadra. Però, come scrive Mario Sconcerti, nessuno, se non magari quelli che ci lavorano tutti i giorni e che magari possono aver voglia di raccontarlo, se non chi va a vedere gli allenamenti della Sampdoria, insomma, è una situazione che bisogna conoscere in profondità, se no rimane il domandone: perché Cassano giocherà per la terza stagione consecutiva nella Sampdoria, ha fallito nel Real Madrid, e una clausola rescissoria modesta è una bestemmia, però una clausola rescissoria di 20 milioni di euro che una grande squadra si può permettere, ebbene nessuno la sfrutta, e Cassano non giocherà nel Barcellona, nel Real, nell'Inter, nella Juventus, in un grande club, ma giocherà ancora nella Sampdoria. Perché? Magari ne parliamo domani. Grazie a Laura Vanossi in redazione, a Filippo Auregi in regia.